nata fra le brine del mio tempo, sorprendendo anche me. Questa è l'immagine precisa che mi viene sempre in mente quando io penso a te. Penso a te mentre i giorni tramontano come foglie che d'autunno rosseggiano sugli alberi. Forse la bugia mia più grossa io l'ho fatta a me stesso, nascondendomi a te. Ma i miei sentimenti in carne ed ossa sono così veri adesso, più finzione non c'è. Tu non sai che oramai non credevo più al ritorno di quel mondo romantico che spiriti. Quanto ti vorrei tu non lo sai, quanto sognare che ancora mi fai. Fammi illudere, fammi credere ancora un po' a un ideale d'amore che ho. Tu non puoi sapere, non sai, tu non puoi sapere quanta vita in più mi dà. Se potessi resettare il cuore, azzerarne le memorie troppo grevi per me, cancellarne i segni di ogni errore, ripulirlo dalle scorie, da ogni macchia che c'è. Io vorrei ritrovare qui dentro me l'innocenza primitiva dell'anima per darla a te. Quanto ti vorrei, tu non lo